programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Roberta Giordano con voi, tra poco l'opinionista estemporaneo di oggi. E voi ascoltatrici e ascoltatori lo sapete, il vostro compito, diciamo così, spero anche un piacere, è quello di raccontarmi, di fare un po' mente locale, di raccontarmi che cosa, quale settimana in questi giorni vi ha fatto riflettere, che cosa avete voglia di dire su un fatto di questi giorni che insomma vi ha fatto discutere magari con qualcuno in famiglia, con gli amici, al lavoro, oppure non vi ha dato la possibilità di esprimere. Ecco, approfittate, questa è l'occasione giusta. 800 24 00 24, facciamo insieme un po' il bilancio in libertà dei fatti della settimana. 800 24 00 24. E direi a questo punto che sì, è il momento di presentare l'ospite. Massimo Fini. Buongiorno. Massimo, mi hai tenuta un po' sul filo del rasoio. Sapete che quando gli ospiti non vengono qua direttamente in studio, perché uno a Parigi, l'altro a Roma, quell'altro in Australia, un altro in un'altra città, a volte anche su Milano, magari uno non è che possa venire sempre, diciamo così, direttamente in studio. Quando a volte al telefono, che stavi facendo, Massimo? Sono indiscreta se te lo chiedo. Stavo guardando la partita Olanda-Giappone. Come va? 0-0, mi pare. Ma tu per chi? Tu perché? A proposito di tifo, no? Che insomma ci sono state delle questioni un po' controverse in questi giorni. Per chi tifi, l'Olanda o il Giappone? L'Olanda. Per l'Olanda, perché ti sembra più vicina, più europea? No, lo tifo per l'Olanda, ma fino a un certo punto, perché c'è un giocatore che ho amato moltissimo, che non c'è, che è Ruud van Nistelrooy. Ah. Quindi un po' la tifo, ma un po' non la tifo. Poi arancione in televisione spicca meglio, devo dire, quindi forse già quella è un'attrazione. Massimo Fini, come presentarlo? Non c'è bisogno, l'anticonformista per antonomasia, scrittore, giornalista, ha scritto molti libri di successo che ancora oggi poi sono ripubblicati, per esempio Il denaro sterco del demonio, manuale contro la donna a favore della femmina. Massimo, sulle femmine e donne c'ha dei suoi pensieri un po', diciamo, originali. E poi direttore della Voce del Ribelle, che è il sito del mensile di cultura e di informazione, appunto, che lui dirige. È anche un giornale, la Voce è anche un giornale, di anche carta, come certo. La vecchia cara carta, carta scritta. L'hai messo nelle due versioni, per quelli più tecnologici e più quelli più amanti, insomma, esatto, tradizionalisti della carta. E poi è stato anche autore, attore di una pièce teatrale, Cyrano, se vi pare. Tu ti senti un po' Cyrano, forse, Massimo, o no? Ma Cyrano in un certo senso è uno spadaccino, è un borderline a modo suo, un isolato, quindi un pochino sì. Ecco, ma ha dato un po'... Però più, diciamo, il Cyrano di Guccini che il Cyrano di Rostand, in fondo. Anche la pièce era molto più ispirata a questo, al personaggio gucciniano che a quello di Rostand. Massimo poi è appena uscito con un nuovo libro che, diciamo, che un po' appesantisce l'anima, ma in senso positivo, di consapevolezza. Si chiama invece Senz'anima, Italia 1980-2010, e dici, Massimo, raccogliendo un po' negli ultimi, dal 1980 appunto al 2010, tantissimi dei tuoi articoli pubblicati sui vari giornali, fai un po', ripercorri l'Italia di questi ultimi 30 anni, sì, no? E ne dai una visione, poi la sintetizzi anche davvero, potrei dire, senza giri di parole, deprimente, no? Perché dice che l'Italia contemporanea è un paese privo di principi, di valori condivisi che non siano il dio quattrino, inguaribilmente volgare, senza dignità e onore, spietato senza essere virile, femmineo ma non femminile, corrotto, intimamente mafioso, devastato nel suo straordinario paesaggio naturale, urbano, artistico, che lo ingentiliva insieme alla sua gente. Un disastro, insomma, Massimo. Beh, sì, diciamo che ci sono state mutazioni antropologiche, sociologiche, etiche nella nostra popolazione, profonde. È possibile anche genetiche, secondo te? Genetiche? No, c'è il fatto che siamo, ma questa è una questione, che ci siamo involgariti tutti, il benessere non ci ha fatto bene, insomma. Un primitivo può essere rozzo, ma non è mai volgare, perché sta nei propri panni, insomma, la volgarità è un non stare nei propri panni. Noi pressati dal sistema di comunicazione, da tutto, dal consumo, eccetera, oggi tendiamo a essere diversi da quello che in realtà siamo, e questa è esattamente la volgarità, insomma. Direi, vabbè, siamo perdendo. Direi che Berlusconi rappresenta al meglio e il peggio degli italiani. Il meglio qual è? rappresenta al meglio il peggio dell'italiano. Ah, scusa, c'era un qui pro quo, il meglio e il peggio avevo pensato, invece al meglio e il peggio. Sì, utilizzo una bella frase che aveva usato Montanelli a proposito di Pertini. Che insomma c'è una certa differenza tra Pertini e Berlusconi. Poi tu raccogli all'inizio alcune frasi che poi sono riportate dentro il tuo libro Senza Anima, per esempio qua Ignazio Silone, Vino e Pane, che non è proprio di oggi questo scritto, e già allora scriveva: non c'è niente da fare, oggi per vivere un po' bene bisogna vendere l'anima. Sì, solo che questo lui lo scrive in pieno fascismo. E purtroppo questo è vero e forse ancora più vero nell'Italia di oggi, perché se tu non accetti umilianti inferramenti, una delle bande, due bande politiche oggi ci sono, che sono i berlusconiani e quegli altri, sei fuori, sei emarginato, sei fuori gioco, insomma. In realtà questa non è una democrazia, è un sistema di oligarchie e di aristocrazie mascherate che non hanno nemmeno gli obblighi storici delle aristocrazie, delle aristocrazie storiche, voglio dire, e è un sistema intimamente appunto mafioso, perché o ti assoggetti e in cambio tieni favori, o sei fuori e non puoi realizzare, o fai una fatica tremenda a realizzare le tue legittime ambizioni. Senti, oggi sì, probabilmente è peggiore la situazione, come dici tu, un po' più involgarita, imbarbarita, però leggevo, è uscito di nuovo in libreria un testo sulla menzogna politica del filosofo francese Alexandre Coiré, che aveva scritto nel 1943, aveva scritto: non si è mai mentito come al giorno d'oggi, e neppure si è mai mentito in modo così sfrontato, sistematico e continuo. Sua fortuna non ha visto gli anni avvenire, insomma. Forse ha ragione Eraclito quando dice che l'umanità è destinata a peggiorare in continuazione. Mamma mia, non c'è limite al peggio, che è vero per molti versi. Vorrei essere ottimista, più il pessimista è più il realismo del pessimismo, diciamo. Certo, Eraclito non era è stato il più grande filosofo dell'antichità e forse uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, perché è colui che scopre che il mondo è energia, dico 2000 anni solo con la sua mente, 2000 anni prima della fisica moderna, insomma. Adesso ritorniamo sui fatti d'attualità che poi sono legatissimi anche al testo, al libro Senza Anima di Massimo Fini. 800 24 00 24, se avete voglia appunto di raccontare una notizia della settimana. Tra poco avremo anche un collegamento extraplanetario, perché sappiamo che i punti di vista devono essere tanti, almeno noi facciamo, diciamo, della democrazia radiofonica, e quindi oltre alle ascoltatrici e agli ascoltatori ci sarà modo anche di avere un punto di vista proprio da un altro pianeta. Guardando le prime pagine dei giornali oggi, Massimo, a proposito appunto delle notizie della settimana, guarda, vedo su Libero l'annuncio di un matrimonio. Tu hai proprio in primissima pagina l'immagine, notizia d'apertura. Tu sai chi si sposa? Assolutamente no, no, di sicuro. Chi si sposa? Ti dico chi si sposa. Fini e Bersani presto sposi. Sì. Questo è l'annuncio. Secondo te saranno presto sposi? Ma è probabile, perché può essere, insomma, nel senso che Fini evidentemente, anche credo per ragioni alla fine caratteriali, insomma, non tollera più la prepotenza assoluta di Berlusconi, insomma, il quale è un prepotente antropologico, insomma, magari non se ne rende neanche conto, ma è così. E quindi piano piano qualcuno se ne esce, insomma, c'è chi entra per infeudarsi e chi esce per ritrovare un minimo di libertà e di dignità. Quindi può darsi che si crei una specie di fronte comune anti-berlusconiano, insomma, come fu, adesso fate debite proporzioni, il CLN contro il fascismo, insomma, che univa monarchici e comunisti. 800 24 00 24. Diamo spazio anche a chi abita su un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Dunque, eccoci di nuovo qui da Marte a scrutare il pianeta terracqueo e bisogna dire che non va sempre tutto così male, via. Non è vero che nel mondo pullulano solo guerre, stupri, torture, violenze di ogni tipo, cricche varie. Guardando invece giù da Marte ho scoperto che sulla Terra a volte ci può essere tanta, tanta armonia. Negli ultimi giorni, infatti, dalla Terra saliva per l'appunto verso il cielo un suono armonico, melodioso, che dà un senso di pace. Sentite. Che musica per le orecchie in terra sono capaci di fare queste cose straordinarie, che pace, che armonia, che suono celeste. A volte davvero gli uomini sono capaci, gli umani, di cose incredibili. Poi naturalmente ci sono altri tipi di suoni che possono invece non essere graditi, almeno da qualcuno, tipo questo. Effetti, sentite, suono sgraziato, no? Troppo pomposo, aulico, diciamo pure vecchio e in definitiva superato. Ecco. Si decidono gli italici a darsi dunque una svolta, a svecchiarsi, a guardare al futuro, che diamine, non so, un possibile inno, ecco, più moderno e appropriato potrebbe essere questo. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole. Del resto l'Italia, sino a prova contraria, è il paese do mare, no? Il paese do mare. Ma per par condicio, diciamo, più nordica, l'inno marino si potrebbe alternare ogni tanto con questo. Dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. Oppure, invece del solito obsoleto inno italiano, un'altra possibile alternativa, ecco, potrebbe essere questa. E la vita, la vita, e la vita è bella, è bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa. Insomma, diciamolo, questo sì, un vero inno, inno alla vita, non al trapassato, come il Mameli. Insomma, volendo le alternative ci sono. Qui da Marte ve ne propongo un'ultima, poi scegliete voi, comunicandolo all'ufficio Inni Postmoderni. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano. Ma per fortuna o purtroppo lo sono. Sul pianeta, ben saldi, ritorniamo tra noi, tra le notizie che riguardano direttamente la Terra, e sentiamo anche gli ascoltatori al numero verde 800 24 0024 che cosa hanno voglia di dire sulle notizie di questi giorni. Per esempio c'è Gianfranco da Montegranaro. Dov'è Montegranaro, Gianfranco? Scusa. Provincia, non si sa più se di Fermo o di Ascoli. Di? Ascoli? Di Fermo, nelle Marche. Nelle Marche, perché non si sa, c'è una diatriba lì in mezzo? Cos'è? Perché... No, diatriba, ma non l'aveva levata, aveva fatto un provvedimento che la voleva levare perché è piccolina come provincia. Ma no, le province non si levano più, le province, non bisogna mai sottovalutare le province, quindi le province devono restare, prima sì, poi no, poi no, poi sì, poi forse alcune, poi forse altre, poi le più piccole. Poi prima delle elezioni erano tutti d'accordo, no? Al 90% per levarle. No, mi pare sono questi sono i nostri famosi governanti, capito? Prima tutti d'accordo, poi non se ne parla più. Si dice che solo gli stupidi non cambiano mai idea. Avranno cambiato idea, Gianfranco? No, no, ma ogni volta che c'è le elezioni, per risparmiare si parla di levare le province, no? Che non è altro che un serbatoio di trombati, di gente che non può andare in Parlamento, li infilano là, capito? E poi non serve, perché a San Fermo c'è la provincia, c'è il comune, adesso le strade non le sfalda nessuno lo stesso, quindi... ci avranno il loro da fare, Gianfranco. Allora, io voglio dire una cosa, la notizia del giorno è questa, che se sei un imputato viene subito promosso ministro, se sei un evasore vieni anche ricevuto gratis a Palazzo Marino, capito? Come tipo quei due là, Dolce, non so come si chiama, Gabbana, ecco. Senti. E poi Stoghirini, siccome è stato convocato dal pubblico ministero, lui subito manda un'ispezione. Perché... Guarda, mi fai venire il dubbio, Gianfranco, che tu abbia letto oggi il Fatto Quotidiano. Mi è capitato fra le mani, ecco. Mi è capitata anche quella, quella notizia di prima del matrimonio, no? Dico, guarda quest'altro, invece dico che su Libero invece. Per sentire qualche cavolata do un'occhiata a quell'altro di giornale, no? Qualche cavola, qualche stupidaggine. Gianfranco, mi informo qua perché mi sembra che ci sia un po' più di informazione seria. Dopo vi volevo dare un consiglio, se poi chiudo, Prego, prego, se sempre ben accetti. Parlo solo io. No, no. Al mattino, no? Fra i sondaggi che fate, no? Ma fate dei sondaggi, diciamo, un po' più utili o seri, in questo senso, perché se uno fa un sondaggio e dice quante colombe sono passate oggi, ma che ci frega me. Allora, il sondaggio che io proporrei è che ci sentiamo intercettati noi italiani. Questa è una cosa interessante. Comune, perché noi è un conto con le parole e un conto con i fatti, no? Tu ti senti intercettato, Gianfranco? Tu ti senti intercettato a volte? Ma a me, anche me dovessi intercettare, non mi interessa, perché io non ho niente da nascondere. E avrai qualcosa da nascondere anche tu, Gianfranco, che non porti... che non porti il cane le volte che deve andare a fare la pipì, magari lo tengo lì a casa chiuso, così impara. No, non dici queste cose. Poi andate facendo, poi giuro veramente, la Lega prima di... nel 97-98, non so come, lo trattava tutti i giorni nella Padania da mafioso, no? E adesso sono fratelli, questo pure... sono i famosi misteri italiani. E con questi misteri, grazie Gianfranco, salutiamo Gianfranco. Perché avevo proprio qua sotto gli occhi vari quotidiani e mi pareva che ripercorresse effettivamente la prima pagina del Fatto Quotidiano, che dice, domande in rosso, imputato, promosso ministro, si riferisce a Brancher, evasori, la Moratti li festeggia, convocato dai PM, ispezione subito, Massimo Fini. Questa è la, diciamo, la politica devastante di delegittimazione della magistratura che sta facendo Berlusconi dal 1994 in poi. Non sono che episodi nuovi di questa battaglia costante. Del resto il Presidente del Consiglio ha detto che i magistrati sono il cancro del paese, no? Sì. E allora vuol dire, se la magistratura è il cancro del paese, questa non è più una democrazia, quindi liberi tutti, anche Valanzasca, Totorina e gli altri, insomma. Cioè, nessuna classe dirigente, per la verità, seria ha mai delegittimato le istituzioni, perché sa che sono le sue istituzioni. Andreotti e Forlani, pur perseguiti e tutto quanto, non hanno mai detto di essere vittima di un complotto della magistratura. Perché avendo senso, erano quel che erano, avendo senso di classe dirigente, le istituzioni non si delegittimano. E questo è un avventuriero e non gliene frega niente, apriamo alle deluge. Ma dimmi la verità, Massimo Fini, non è che anche tu a volte ti senti intercettato? Magari ti confondo con Gianfranco Fini, avete lo stesso cognome, quindi uno magari a volte può capitare che... Ma no. Può darsi che io sia intercettato, se sono intercettato dalla Digos e illegalmente, insomma. Ma comunque la questione delle intercettazioni va divisa in due parti. Una sono intercettazioni che la magistratura deve poter fare senza limitazioni, e l'altra è la divulgazione delle intercettazioni. E su questo effettivamente nelle fasi delle indagini preliminari, che sono fasi delicate, incerte, perché non si può avere nessuna certezza, secondo me dovrebbe essere ripristinato non solo per le intercettazioni, ma per come era nel vecchio codice, ma per tutti gli atti giustori il segreto istruttorio. Perché insomma, nei paesi democratici gli istruttori sono segreti, i dibattimenti sono pubblici. Ecco, nei paesi totalitari sono segreti anche i dibattimenti. Perché non è giusto che una persona venga stritolata senza che ci sia, senza sapere se ha una qualche rilevanza la sua posizione all'interno del processo. Dopo al processo evidentemente verranno portati solo gli elementi che sono utili al processo, e allora in quel caso... Quindi tu dici, fino al processo non si possono pubblicare le cose che magari però possono essere di rilevanza sociale, diciamo, no? Lo so, ma vedi, il problema nasce da un altro problema, cioè secondo me questa è l'impostazione giusta. Come per esempio in Gran Bretagna, solo che è chiaro che se le istruttorie durano 3-4 anni, allora il divieto si risolve in un inaccettabile bagaglio alla libertà di stampa. La cosa che bisognerebbe fare, che io scrivo da quando ho cominciato questo mestiere, quindi ahimè circa 40 anni fa, è che il vero problema della giustizia italiana è la lunghezza delle sue procedure, da cui deriva tutta una serie di conseguenze: una, la impossibilità di tutelare il segreto istruttorio; l'altra, la lunghezza delle carcerazioni preventive. Però la nostra classe politica di questo problema non si è occupata mai. Torniamo Massimo Fini al numero verde, quindi agli ascoltatori e alle loro opinioni, 800 24 0024. C'è Zaccaria da Milano. Pronto? Eccoci Zaccaria, eccoci qua. Pronto, che piacere sentirla. Grazie, è reciproco. Veramente. Io sono un assiduo dei Radio 24, sento solo quella, tutte le mie radio a casa sono collegate soltanto su Radio 24. Premesso che sono tunisino. Ah. Sì, sono tunisino, sono qua da tanto tempo, da quasi 23 anni. Una vita, insomma, Zaccaria. Sì, sono arrivato qua che avevo 27 anni, adesso ne ho più di 52, dunque sono cresciuto in mezzo a voi. Senti, dimmi una sola una cosa, Zaccaria, mi susciti subito una curiosità. Tu ritieni che l'immigrazione, il periodo in cui sei arrivato tu qui in Italia e il tipo di persone anche che venivano da noi siano un po', ti ritrovi anche nei tuoi compatrioti o altri, diciamo, Roberta, tra virgolette? Sì. Le dico solo una cosa. Sì. Quando sono arrivato io, al governo c'era Craxi. Mm. Io sono arrivato con laurea in tasca e poi ho dovuto, per convertire a fare 4 anni dell'Università di Siena, per convertire all'italiano, ho fatto la stessa tesi che ho fatto all'ENA, io ho studiato all'ENA di Parigi, l'ENA di Tunisi, non hanno accettato la mia tesi in francese, l'ho dovuto rifarla in italiano, in lingua italiana. Dunque, per dirle che prima mi chiamavano signor Zaccaria, adesso sono soltanto quel Perù, quell'extracomunitario, quel negro lì, e la cosa, vivendo a Milano, me la sento addosso, mi sento proprio a disagio con questa storia qua, perché si sta facendo di tutto un fascio, un'erba, e non mi ritrovo. Ho capito, caro. Senti, e quindi la tua notizia della settimana qual è, Zaccaria? La mia notizia della settimana, che mi ha fatto veramente troppo male, è sentire su Radio Padania gente che non tifa Italia, gente che non lo so, parla male dell'Italia, però i soldi dell'Italia li prendono tutti di là, vanno lì a prendere i soldi e poi non fanno niente. L'Italia è bella, l'Italia è buona, c'è qualche mela marcia, è il frutto della globalizzazione, il frutto del magna magna che c'è qua in Italia, però mi dà fastidio sentire qualcuno italiano che non ha quel sentimento italiano. Premesso tutto ciò, io, Roberta, sì, posso... Dammi del tu, Zaccaria, se no sembra che io do del tu a tutti, perché che me lo si desse. Perché, a parte tutto, magari mi sentono tutti i radioascoltatori adesso, io quando sento la tua voce mi viene la pelle d'oca, perché è troppo radiofonica, è troppo bella, è troppo radiofonica. Zaccaria, guarda, sei veramente un uomo da abbracciare, anche per la lezione che ci hai dato di patriottismo, che diciamo sfugge questo sentimento a molti italiani. Io non dico che bisogna sentirlo nel senso moralistico, un po' bigotto, un po' così campanilistico, però insomma, diciamo, facciamo parte comunque di un paese, di una storia, di una tradizione, di una cultura che può evolversi, per carità, ma che almeno ci unisca a questo e che ci aiuti anche a crescere, no? E soprattutto, come dici tu, soprattutto chi vuole stare in questo paese, addirittura lo vuole governare, forse, diciamo, un po' un esame di coscienza. Zaccaria, ti ringrazio infinitamente. Grazie a te, Roberta. Ancora, gli ascoltatori, abbiate ancora un po' di pazienza. Credo che Maurizio sia ricaduto, lo chiamiamo tra pochissimo. Maurizio, abbia pazienza anche Claudio da Treviso. Ancora pochi istanti. Volevo sapere, Massimo Fini, è stato trovato un bel intervento, molto, molto civile e appassionato, questo di Zaccaria, originario della Tunisia. Ma in genere gli stranieri amano più l'Italia di quanto l'amiamo noi autoctoni, diciamo. Ed è anche vero che fra i nostri mille difetti non c'è quello dello sciovinismo alla francese, insomma, noi siamo non diciamo molto noi critici, siamo i meglio, critici e molto critici e autocritici. Sì. Però è anche vero che è molto difficile, l'Italia di oggi è un paese abbastanza inguardabile, insomma. dove appunto, come si scriveva oggi, quando c'è uno che è in situazione di imputato, che sarebbe una ragione per non nominarlo in nessuna carica istituzionale. Brancher sta dicendo ministro del federalismo, neoministro del federalismo. Esatto, oppure c'è un presidente del Consiglio che ha evidentemente violato praticamente quasi tutte le leggi di questo paese. Però anche in senso più generale, l'Italia è stata grande quando era preunitaria, cioè l'Italia dei comuni, delle repubbliche, l'Italia della grande letteratura, Dante, Boccaccio, Cavalcanti, Petrarca, l'Italia della grande arte, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, e poi l'Italia laboratorio, dove nasce come per la prima volta una forte classe di mercanti che darà poi vita alla modernità, che io detesto, ma insomma l'Italia che ci ha dato è in realtà quella dei nostri progenitori. L'Italia dall'unità in poi, a parte un po' il primo Novecento, dove siamo stati culturalmente un paese importante con le scuole, le avanguardie, il futurismo, ma poi direi dopo non c'è stato più nulla. E poi soprattutto, ripeto, oggi è un paese dove non esiste, come dico nel libro, nessun valore condiviso che non sia il Dio Quattrino, il che non è un buon modo di stare insieme. Direi di no. Sentiamo cosa ha da dirci Claudio da Treviso, il numero verde, che ripeto 800 24 00 24, se avete voglia di dire liberamente quello che pensate sui vari fatti della settimana, sceglietene uno, quelli che volete, 800 24 00 24. Chiedo scusa a Maurizio da Verona, che forse era un po' che attendeva, non riusciamo a riprenderlo, chiedo, vediamo se Giorgio De Luca riesce a fare il miracolo. Claudio da Treviso, dunque. Claudio. Sì, buongiorno. Buongiorno, Claudio. Io vivo a Treviso, ho una piccola impresa e vedo tutti i giorni le difficoltà che ci sono qua a Treviso, con casi di gente che cerca lavoro tutti i giorni e casi, mi credo, anche penosi. Però vedo anche, qua si parla di Padania, qua prendo la parola, perché? Sì. Perché vedo che la Regione Sicilia ha 27.000 dipendenti, dati ricavati dal Sole 24 Ore. La Regione Veneto, con cui io fra l'altro la mia impresa lavora, ha 3.000 dipendenti. La Regione Lombardia ne ha 14.000. La spesa sanitaria, dati Sole 24 Ore, 380 euro per abitante in Friuli, 3.780 euro per abitante in Sicilia. Queste sono le cifre, questa è la propaganda, la Padania. Perciò non è che i cittadini del nord odiano il sud, come qualcuno vuole dire, o ci vogliamo separare. È giusto soltanto che le risorse siano ripartite. Allora, 27.000 dipendenti alla Regione Sicilia, cosa fanno tutti i giorni? 14.000 forestali in Calabria, cosa fanno tutti i giorni? 12 anni di emergenza rifiuti a Napoli con circa 200 milioni di euro buttati al vento. Queste sono le cifre che rinforzano il sentimento, diciamo, di separatista del Veneto, perché mi creda, al dispetto di quel che si dice, che il Veneto sta bene, il Veneto è ricco, questo io lo sto vivendo tutti i giorni con la mia impresa, quei dipendenti che vogliono venire a lavorare tutti i sabati, perché dal lunedì al venerdì non ce la fanno con lo stipendio, con i dipendenti che vorrebbero venire a lavorare anche la domenica, con casi che si presentano in azienda in cerca di lavoro che non sanno come andare avanti. Io ho dei sentimenti cristiani, sono cattolico, questo può essere, va bene, però ho anche, come posso dire, una certa etica. Allora, il Sud, quando vedo che la Sfiom sta sputando addosso a 12.000 posti di lavoro, che poi non è per niente vero, perché poi va a finire cosa? Che stanno ricattando indirettamente lo Stato, non ci sto più. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo andare avanti tutti, dobbiamo remare tutti quanti nella stessa direzione. E il sentimento qui in Veneto è pesante, le difficoltà ci sono. Ecco, queste però sono state le cifre che hanno fatto crescere la Lega e hanno fatto crescere tutto, diciamo, questo sentimento separatista. È questo il risultato. Mi vuole chiedere qualcosa a riguardo? No, Claudio, è sufficiente. Mi sembra che tu abbia espresso dei concetti molto chiari, abbia dato anche diverse cifre. Sicuramente, insomma, poi ho avuto di recente anche Luca Ricolfi, sociologo, il sacco del nord. Ci sono dei dati oggettivi. E l'importante, appunto, è non identificare le persone che vivono al sud, i comuni cittadini, come gente che se ne vuole approfittare. Poi ci saranno quelli più civili, civili, meno civili, come dappertutto. È una lunga storia, è un apparato, una classe dirigente che forse, diciamo, ha più interesse, più comodo a far funzionare le cose in un certo modo anziché un altro, Claudio. Però, visto che tu chiami da Treviso, allora rimaniamo nel Veneto con Maurizio da Verona, che finalmente, Maurizio, perdonami, a volte succede, insomma. Prego, Maurizio. Sì, io mi sento un po' borderline, forse come Massimo Fini, perché io sono del Veneto, non ho mai votato Lega, anche se devo riconoscere i risultati provocatori, anche in modo provocatorio la Lega è riuscita a ottenere e a fare emergere i problemi. Mi qualifico, anch'io sono un imprenditore, ho 46 anni, un'azienda di 25 persone e lavoro con le difficoltà che ha descritto il mio collega Claudio prima da Treviso, poc'anzi, sì. Mi qualifico dicendo anche che mio nonno era comunista, mio padre democristiano e io da piccolo ho sempre assistito a delle tribune politiche a tavola la domenica tra mio padre democristiano e mio nonno comunista che combattevano. E per me sono stati due esempi importanti. E mio nonno era stato anche partigiano ed ha avuto la famiglia quasi sterminata da degli italianissimi fascisti e quindi sono abituato, diciamo, a guardare le cose con un certo punto di vista. Non credo sia un problema del sud o del nord, credo sia un problema di malagestio e di responsabilità del peso dell'Italia, Italia come amministrazione, che in un contesto anche europeo, dove il peso dello Stato dovrebbe essere diminuito, in realtà è di molto aumentato in Italia e non ha gestito bene. La colpa secondo me è proprio questa e anche le cose sull'inno italiano. Io diciamo, non è che ho tifato Paraguay, anche se sono portato a difendere sportivamente per i più deboli. Però, anch'io in genere devo dire. Sì, questa indole si è un po' persa, no? Una volta c'era lo sportivissimo modo di tifare chi era svantaggiato per dare anche più Maurizio, alla scusa, partita. Sì. Posso dirti una cosa proprio sottovoce? Non vorrei avere poi tutto essere impopolare tutti addosso. Io devo dire che mi sento a livello di sport un pochino più rappresentata come italiana, per esempio dalla Schiavone, Francesca Schiavone, che ha vinto a Roland Garros, che non dalla nazionale italiana di calcio. Questi maschi miliardari, mi sta un po' antipatico. Detto tra noi. Vabbè. Prego, sì, stavo dicendo. Maurizio. Ecco, e quindi avere appunto dei giocatori super pagati che si confrontano con giocatori che magari neanche tutti insieme prendono quanto quello che prende il più scarso degli italiani fa un po' specie, insomma, ecco. Quindi questo malumore che c'è nel nord-est, nord, e che viene spesso descritto in maniera molto veloce dicendo che siamo protezionisti, cioè io mia madre ogni volta che si presenta una persona alla porta a chiedere elemosina gliela fa. Noi non è che siamo, cioè noi non siamo così come ci veniamo dipinti. Il Veneto è una regione che ha dimostrato di sapercela fare nel dopoguerra, che si è tirata su le maniche, ha lavorato, ha creato ricchezza. Purtroppo questa ricchezza è stata spesa molto male e questo è la misura della sfiducia del nord e in particolare del Veneto nei confronti di questa politica. Maurizio, sei stato chiarissimo, ti ringrazio. Facciamo sentire anche la voce di Fabrizio da Cori. Cori mio, di dov'è Cori? Cori? Fabrizio? Sì, pronto. Dove sta Cori esattamente? In provincia di Latina. In provincia di Latina, ecco. Sì. Cori, in provincia di... È bello che vengano fuori anche le piccole frazioni o i paesi, eccetera, così si sa di quante facce è fatta l'Italia. Fabrizio, qual è la tua notizia della settimana? Allora, la notizia è quella delle parole di Tommaso Marchionne. Ti si sente malino, sai Fabrizio? Sei in una zona un po'... Vabbè, sentite? Un po' meglio, mettici molta energia. Sì, allora dicevo, Marchionne con le sue parole ci vuole riportare ai tempi schiavitù, nel senso che allora questo ha detto che se noi non accettiamo i contratti che fanno in Polonia, la panda sarà fatta in Polonia. Quindi stai criticando Marchionne le sue posizioni perché dici ci vuole riportare indietro sulla questione dello statuto dei lavoratori, diritti eccetera eccetera. Dice, bisogna accettare le condizioni che hanno in Polonia, vanno bene, devono andare bene anche per gli operai italiani, questo? Certo, io pensavo sempre che la situazione invece di averci portato in avanti si sarebbe portato indietro, e questo sta accadendo. Ho capito. Fabrizio, perdonami, il concetto è abbastanza chiaro, anche se c'erano veramente troppe interferenze e su e giù della tua voce, però il tema mi pare che insomma si sia percepito abbastanza nettamente. Massimo Fini, diciamo, ti inquieta di più l'ernia al disco di Gigi Buffon o il fatto che la Nutella potrebbe essere messa al bando, diciamo così un po' esageratamente, ecco? Beh, l'ernia di Buffon. Ah, ecco. Ma tu mangi la Nutella? Mangi Nutella tu? Non sono della generazione della Nutella. No, io sì, ma vabbè. Mi fa schifo. È proprio un anticonformista, non c'è niente da fare, Massimo Fini. Quindi no. L'ernia di Buffon. Senti, invece che Brunetta sia diventato, lo mandino come plenipotenziario a Venezia, una specie di inviato speciale del governo, una volta che dicono, è stato scritto proprio ieri, l'altro ieri sul Corriere, è stato trombato, diceva Gian Antonio Stella, come sindaco, ce lo rispediscono in questo modo, cosa pensi? È un po' come la storia di prima delle province o delle cose, cioè quando uno è trombato da una parte gli si trova sempre un posto, ma questo vale anche per la finta lotta fra maggioranza e opposizione, per cui ogni giorno si sbertucciano pubblicamente, poi se tu vai a Roma li trovi la sera nelle stesse case che si guardano e si fanno l'occhiolino, tutti contenti di aver fatto centro alla ruota della fortuna. Perché e poi mangiano una coda da vaccinare insieme, probabilmente. Esattamente, sotto banco si distribuiscono tutti i posti del sottopotere. Ma volevo dire qualcosa a proposito di quello che hanno detto sotto angolazioni diverse i due imprenditori. Claudio e Maurizio, sì. E cioè, che è vero che ci sono delle cose che non vanno, quelle che loro hanno indicato e tutto quanto, ma sotto sotto il profondo disagio del ricco nord-est è che questi lavorano 13 ore al giorno e non sono felici. Cioè c'è qualcosa di malato, profondamente malato nel nostro modello di sviluppo, sintetizzato da un complesso musicale, non mi ricordo più quale, in produci, consuma, crepa. Non ricordo. Sì, solo che lo siano i CCP, adesso non lo so, comunque. Per cui appunto questo attivismo forsennato che c'è al nord è un attivismo che alla fine risulta essere priva di senso se non ci dà serenità. E in quanto alla vicenda nord-sud, se si va a guardare la storia d'Italia, appunto, l'unità d'Italia ha danneggiato molto più il sud del nord. Poi oggi, naturalmente, il sud impoverito vampirizza il nord. Ma l'errore è stato mettere insieme due culture profondamente diverse. Il sud non ha potuto svilupparsi o non svilupparsi secondo le proprie vocazioni, che non sono quelli di lavorare 13 ore al giorno, perché se tu stai a Lampedusa o stai a Capo d'Orlando è assurdo. Schianti, dici, dal caldo. Lui sono ragioni climatiche, sono profonde differenze sociali, culturali, climatiche di tutti i tipi, insomma. Io sono per il concetto delle piccole patrie, cioè perché ognuno si determini secondo le proprie cose. Così l'unità ha distrutto questa cosa, ha creato al sud la cattedrale nel deserto, come sappiamo benissimo, e poi questa disparità fra cose. È vero che oggi chi sta al sud, secondo me, che ha più tempo di chi sta al nord, secondo me è avvantaggiato, non dovrebbe però pretendere di avere lo stesso tenore di vita di quello che hanno al nord. Massimo, perdonami, che abbiamo ancora pochissimi istanti, c'è sempre l'analisi sociolinguistica della linguista Valeria Della Valle, della Sapienza di Roma. Valeria, proprio in questi 42 secondi, ecco, sì. Diciamo il termine di questa settimana potrebbe essere, visto che di intercettazioni si è parlato moltissimo e come termine l'avevamo usato giorni fa, la legge Bavaglio, no? Che adesso è stata questa, certo, la definizione. Che dire, bene, in pochi secondi, perdonami. Bene, in pochi secondi, niente, legge Bavaglio è un'espressione che esiste dal 1993, la prima volta è comparsa, come al solito per merito di un giornalista, sul Corriere della Sera, 29 luglio 1993. Niente proprio di meno, tanti anni. Niente di meno, beh, insomma, che cosa si allude lo capiamo tutti, il significato naturalmente è quello di mettere un freno anche alla libertà di informazione e trae spunto, mi riferisco all'origine linguistica dell'espressione, il modello della legge truffa, quindi risaliamo in quel caso al 1953, no? E qui lì si parlò di legge truffa e poi esistono non solo la legge truffa, la legge Bavaglio, ma la legge scudo, la legge obiettivo, la legge Burca, tutte queste espressioni composte. Ecco, danno a chi come me le registra, le cataloga, le studia, danno la gioia di assistere a una lingua italiana ricca di capacità espressive e la rabbia per il significato al quale alludono. Grazie carissima. Addio. Valeria Della Valle, però il tempo corre, volevo chiedere anche a Massimo Fini se ha adottato un pipistrello, perché sembra sia la vera nuova arma contro le zanzare, una campagna in Toscana, ma adesso arriva anche una in Lombardia. Una giusta rivalutazione dei pipistrelli, che sono animali che, a parte che attaccarsi ai capelli delle donne, ecco, sono animali utilissimi perché uccidono questi invece inutili, non so, appunto, che parte abbiano nella catena alimentare, ma mi pare che ci sia proprio ecologica, che sono le zanzare che riescono a rovinare la vita, momenti poetici, vero, romantici, estivi, che mi pare ci sia anche una vecchia canzone che diceva può darsi che non sappia cosa dico scegliendo te un pipistrello per amico, mi pare di ricordare una cosa così. Comunque Massimo Fini, in chiusura, in questi 21 secondi che rimangono, che conclusione vogliamo darci col tuo Senz'anima, libro pubblicato adesso da Massimo Fini sotto il titolo Italia 1980-2010? Una battuta? Io credo che non, questo paese non si risolleverà dal punto di vista proprio così del costume, della volgarità, eccetera, eccetera, se non ci sarà un qualche evento drammatico, penso, crisi economica profonda, che io mi auguro avvenga per poter poi ricominciare in modo un pochino. Chissà se possa servire questo, incrociamo le dita. Grazie comunque a Massimo Fini. Ciao Massimo. Arrivederci, ciao a te. E da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.